5. Era ancora la fattoria più bella della zona. Mura solide, vetri alle finestre, terreno fino al fiume. Margaret, la madre di Joseph, l'aveva ereditata dal terzo marito, il Sakem, Brant Kanagaradunka. Sull'aia, una famiglia di fittavoli irlandesi sollevava un carro per rimettere sul perno una delle ruote. I cavalli da tiro si abbeveravano, accuditi da un ragazzino. Un paio di cacciatori Mohawk rattoppava la chiglia di una canoa, mentre le mogli mercanteggiavano con le donne delle fattorie vicine, intorno a una pila di coperte. Di solito Joseph si fermava a scambiare chiacchiere e commenti, ma non quel giorno. Susanna lo accolse sull'uscio. Cristina sbirciava da dietro la gonna. Quando riconobbe il padre, gli indirizzò un sorriso timido. Lui le sfiorò la guancia col dito e la bimba tornò a nascondersi. Prima di entrare, guardò negli occhi la moglie e lasciò che intuisse la sua preoccupazione. Nella penombra scorse i commensali, che scattarono in piedi. Herr Lawrence, armaiolo di Albany, gli rivolse un saluto e presentò la guardia indiana che mangiava alla sua destra. Gli altri due ospiti fecero un inchino. Il più anziano poteva avere 16 anni. Parlò a nome di entrambi. Erano maestri itineranti, di nazionalità Shawnee. Avevano studiato a Lebanon per portare Cristo e l'alfabeto nei villaggi di frontiera. Ogni notte facevano tappa da un vecchio allievo della scuola. Ringraziarono per l'ospitalità. Avrebbero pregato per lui. Joseph sedette insieme a loro, ma una sagoma, nell'angolo, attirò la sua attenzione. Piccoli occhi riflettevano i bagliori del fuoco. «Isaac, vieni a salutare tuo padre!» Il ragazzino si avvicinò. Aveva 9 anni, non abbastanza per combattere. Joseph non era certo che fosse un bene. In tempo di guerra i deboli soccombono. Gli strinse la spalla, come volesse saggiarne la robustezza e al contempo trasmettergli forza. Si accorse che aveva le guance dipinte di rosso e di nero. La presa si fece più stretta. Isaac cercò di divincolarsi, ma dovette arrendersi alla forza dell'adulto. «Questi sono colori di guerra», disse Joseph, mentre gli puliva il viso, con gesti energici. «Non servono per giocare e non si portano in casa». Lo liberò e il ragazzo sgattaiolò verso l'uscita. I figli non avevano più rispetto per le cose importanti. «Tuo figlio non ha colpa del peso che hai nella mente», mormorò Susanna. Joseph ignorò il rimprovero e allungò la mano verso la piccola Cristina, ma la bimba si ritrasse e seguì il fratello fuori di casa. Susanna gli servì il pranzo. Joseph mangiò senza alzare la faccia dal piatto, ogni rumore amplificato dal silenzio. Quando ebbe finito, sedette di fronte al camino a fumare la pipa, mentre i commensali si congedavano uno dopo l'altro. L'ultimo fu Lawrence, che si avvicinò cauto, con l'evidente intenzione di dire qualcosa. Ottenne un'occhiata indifferente. «Mi chiedono fucili, signor Brant». «Bene per i vostri affari». Lawrence scosse la testa. «Non capite, mi chiedono fucili, tanti fucili, più di quelli che posso fabbricare». «Diventerete ricco». «Da Albany a qui, sono incappato in 3 posti di blocco della milizia. Mi hanno puntato le armi addosso, hanno furgato nel carro, rivoltato tutto. Che diavolo succede, signor Brant? Sono impazziti? Vogliono fare come a Boston?» Joseph lasciò che le fiamme catturassero il suo sguardo mentre tirava ampie boccate dalla pipa. «In quel caso, noi non ci faremo assediare». L'armaiolo tentennò, poi capì che l'indiano non avrebbe aggiunto altro e si accomiatò. Joseph continuò a fissare il fuoco. Susanna chiamò i bambini. Era sorella di Peggy, la prima moglie. Erano Oneida, della Susquehanna Valley. Dopo essere rimasto vedovo, Joseph l'aveva sposata, come volevano le usanze. Isaac e Cristina le si erano affezionati nel volgere di un'estate. Se le cose fossero precipitate, avrebbe dovuto pensare a lei e ai figli. E a Margaret. «Dov'è mia madre?» «A letto. È malata?» «No, a volte confonde il giorno con la notte». La vecchia madre comparve attaccata al braccio di Susanna. Sedette di fronte a Joseph, su una poltroncina logora che sembrava tagliata su di lei come un vestito. Ossa, carne, legno e stoffa si erano modellati in un incastro perfetto. «Come stai, Margaret?» La vecchia strinse gli occhi per riconoscerlo. Prima di coricarmi ho chiesto a Dio di prendermi con sé durante il sonno. Ora che mi avete svegliata, non potrà più esaudirmi. Sarà per un'altra volta allora. Già, dammi da fumare. Joseph le offrì la pipa. Ho visto Molly, giù all'emporio. Ti manda i suoi saluti. Dille di venire a trovarmi, prima che muoio. Devo dirle delle cose. Certo, Margaret. La vecchia assaporò l'aroma del tabacco con soddisfazione. Ricordi quando William Johnson venne qui per la prima volta? Sì, tua sorella era bellissima, la ragazza più bella della vallata. Joseph conservava immagini nitide. Aveva 11 anni quando il patrigno aveva ospitato quel gentiluomo irlandese dai capelli rossi. Molly era giovane e in età da marito. Joseph ricordava che gli adulti avevano discusso della guerra contro la Francia e i suoi alleati Huron, Abenaki e Caughnawaga. Accarezzò i capelli candidi della madre. «La guerra c'è ancora?» chiese lei. «È finita 12 anni fa». La vecchia scosse il capo, tenendo la pipa tra le labbra grinzose. «Joseph?» «Sì, Margaret?» «Quanti nipoti ho?» 10. Hai 10 nipoti?» «Già». Margaret annuì ai propri pensieri. Joseph la osservò a lungo. Riveriva il passato contenuto in quel viso, memore di stagioni antiche trascorse una dopo l'altra, insieme alla corrente del fiume. Si chiese se un giorno Isaac e Cristina lo avrebbero accudito come lui accudiva Margaret. Forse l'avrebbero guardato con la stessa compassione. Forse non sarebbe vissuto abbastanza. La vecchia protese un dito ossuto verso il fuoco. «Guarda, le fiamme diventano verdi. Stanno arrivando». «Chi?» Margaret sputò nel fuoco e non rispose. Susanna lo chiamò alla finestra. Lui sbirciò fuori. Una canoa avanzava sul sentiero, portata da 3 uomini.